Lucio Saffaro nasce a Trieste nel 29, quindi di questa generazione, anche se come si vedrà poi anche in mostra è del tutto estraneo alla pittura del suo tempo e come l'ha definito benissimo il nostro Carlo Giulio Argan, era un artista de mode, fuori dalle mode, fuori dai circuiti delle gallerie, o meglio, aveva rapporti con le gallerie, ma ne era anche estraneo. È un artista che si muove tra la pittura rinascimentale, quindi Piero della Francesca, per esempio, Paolo Uccello e tutti i riferimenti teorici che possono essere i trattati di Serlio e i trattati del Cinquecento di matematica, per arrivare poi a però anche una natura mitteleuropea, perché non dobbiamo scordare che Saffaro nasce a Trieste, la sua città d'adozione sarà Bologna, dove lavorerà per tutta la vita, però sì, queste due anime, la mitteleuropea e quella più rinascimentale, si incontrano proprio nella città felsinea, quindi la sua pittura si dipana dagli inizi, diciamo così, di una pittura che possiamo definire vagamente metafisica, per arrivare poi ai poliedri più noti, che sono i suoi poliedri granitici, dove scompaiono i colori e rimangono solo gli azzurri e i grigi del mare, e con riferimenti chiaramente a Trieste, all'orizzonte, all'infinito, al tema dell'essere. Saffaro non amava essere definito l'artista matematico o il matematico artista, quindi l'artista che fa la scienza o lo scienziato che fa la pittura, ecco. Ma è chiaro che Saffaro si laurea in fisica pura, quindi questo è un dato oggettivo, quindi i suoi interessi matematici sono chiari ed evidenti. Però le discipline si incontrano in un modo del tutto originale e originario, cioè i vari linguaggi, che possono essere anche quelli della poetica saffariana legata alla letteratura, perché Saffaro scriveva anche, non si può comprendere la sua pittura, il suo fare grafico, se non si leggono gli scritti di Lucio Saffaro, che sono scritti che si riferiscono ancora una volta a trattati antichi, quindi i generi proprio sono per esempio il Trattatus Logicus Prospecticus, che è un grande poema grafico, ha anche tutta una sua concettualizzazione letteraria. La matematica certamente entra nella pittura, ma la sfiora, non è mai una traduzione visiva di procedimenti matematici o di formule matematiche, si incontrano a livello concettuale delle idee, nel mondo delle idee potremmo dire, ma non sono assolutamente delle ripetizioni o delle traduzioni di formule geometriche o matematiche. Questo ce lo dicono anche i titoli dei quadri di Saffaro, con richiami naturalmente anche dei matematici, ma in realtà sono linguaggi distinti che si incontrano, potremmo dire, semplificando, ecco, un pensiero molto complesso, come è stato ben definito da Kame, da Giovanni Maria Kame, un pensiero plurale, proprio per questa sua natura interdisciplinare. E adesso allora facciamo un percorso, non dico a ritroso per quanto riguarda l'ispirazione, ma sono stati citati alcuni aspetti classici, in che modo sono stati espressi nella sua arte? Ma intanto sicuramente uno degli interessi più profondi di Saffaro erano quelli legati agli studi prospettici, che lui riporta nelle sue tele, soprattutto anche nel mondo grafico, della sua grafica, in modo del tutto particolare, non sono ripetizioni di una prospettiva classica, ma li traduce in dipinti che possono essere, come dicevo prima, molto vicini ad alcuni aspetti metafisici, ma poi se noi andiamo ad indagare la prospettiva dei primi quadri degli anni 50, non è una prospettiva scientifica, matematica, non si riesce ad individuare il punto di fuga o l'ombra esatta, sono giochi, diciamo così, illusivi ed illusori. Il sogno più grande di Saffaro, uno dei sogni più grandi di Saffaro, era quello di misurare l'universo attraverso la linea, quindi attraverso una dimensione diciamo non tridimensionale ma bidimensionale, aveva questo grande sogno, nonché quello di andare oltre i poliedri regolari platonici, quindi i riferimenti sono sicuramente alla filosofia di Platone, alla grande matematica e ai grandi aristotelici, quindi entriamo anche nel mondo della filosofia. Per cui riferimenti certamente Paolo Uccello, Leon Battista Alberti, tutti trattati anche di pittura antica, Saffaro li conosceva molto bene. Sa di fatto che questa pittura contemporanea, se pensiamo agli anni 50 e 60, agli anni 60, agli anni della pop art, agli anni 50 l'informale, Saffaro distruggerà 26 quadri di natura informale, che aveva prodotto negli anni 50, proprio perché negli anni 70 non si riconosceva più in quella pittura, gli era estranea la pittura materica, la pittura scenica di quel tipo, per cui con grande spirito critico non solo distruggerà 26, ma distruggerà anche 300 disegni. Quindi diciamo un artista che medita anche su se stesso e sul suo lavoro a distanza di anni.